Certe notti le macchine calde e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, che quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa Lilian sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Certe notti fa un po' di cagnara che sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia ai locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. E si può restare soli certe notti qui, che ti si accontenta dove così così. Certe notti o sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo tra Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette un po' mamma un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. E si può restare soli certe notti qui, che se ti accontenti godi così così. Certe notti son notti dove regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che vuoi. Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. E si può restare soli certe notti qui, e chissà con te. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi.